Ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola. E beh, ciucu ciucu. E beh, che mari. Come va? Non c'è male, non c'è male, si c'è avanti. Chi è l'altro? Avanti, c'era la portanza, chi era? Boh, non l'ho intesa. Forse magari sono vicino a te. Avanti, che vuole entrare? E non ha gana. E beh... Quanto mai sei in casa, sei in giro? Sono a casa, c'è freschetto fuori. Ho fatto il cane a fare la pupù e poi sono entrato qua. Capito? Sono direi tutta la mattina in giro, quindi figurati a fare da un coso, da un ufficio all'altro. Sì, anche quello bisogna fare, se vuoi avere un qualcosa bisogna andare da una parte all'altra, eh. Vabbè, quello sì. Se vogliamo qualcosa bisogna farla per forza. Bisogna uscire e fare passeggiata per gli uffici. Ehi, hai fatto, è così. Certo che a casa non vengono, per cui bisogna andarsi da fare uno e così via. Capito, mi hai? E a casa non ci vengono, no. Sono quando è a Ciappalli, domani vengono a casa. E beh... Come ti sta arrivando, Antonio? Segnale 5. La radio è buona, sì? Sì, che è buona, voglia. Con Gommino, sì. E io? E io voglia che arrivi qua. Io già lo sai che siete a tutti. Con questa antenna che ho. Quindi... A voglia, a voglia. Sì, ok. Perché sono le macchine un po' scariche anche. E subito lo metto a caricare. Oh, si scaricano subito queste batterie, un'ora acceso e si scarica, beh. Oh, io ce li ho belle cariche, sono più, quasi un mesetto che non lo uso, i portatilini, figurati, però già tengono, a voglia, le batterie sono cariche, sono. Dovresti comprarti cosa, quello che... La batteria falsa che si aggancia con l'attaccaccio di sigaro dovresti comprarti. Costa poco, costa una fesseria. A meno utilizzi l'alimentatore e sei tranquillo. Forse conviene, perché si scarica subito, capito? E dove lo posso trovare? Su internet ci sono, devi andare su internet. Si chiama Battery Limit, sembra Limit, non mi ricordo adesso come si chiama. Comunque basta andare sui componenti del Bofeng e lo trovi subito. E come si chiama che lo cerco? Battery Eliminator mi pare si chiama, se non ricordo. Una cosa del genere dovrebbe essere. No, basta scrivere batteria e falsa batteria per Bofeng. E adesso l'accendo, provo a vedere, dai. Ci sentiamo dopo, Antonio. E io, d'accordo.